Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Partiamo dai dati Eurostat per il 2012. Indicano che un quarto della popolazione europea è a rischio povertà. Aumenta il divario tra ricchi e poveri in Europa, in una tendenza che sembra sempre più spazzar via la classe media. Allora, sentiamo subito il punto che ci fa Cristina Carpinelli. Un quarto della popolazione europea è a rischio povertà, un termine che racconta una linea di confine, un modo di vivere al ribasso, una mancanza di prospettive. 125 milioni di persone vivono così in Europa, gente che un lavoro non ce l'ha più o persone che ufficialmente nelle maglie dell'occupazione non sono mai entrate. In cima a questa classifica la Bulgaria, in cui il 50% della popolazione è letteralmente al collasso. A seguire la Romania, con il 41,7% della popolazione in una posizione vulnerabile. La Spagna, che su questo fronte sta crescendo disperatamente, quest'anno ha sfiorato il 28%. In Europa il 27% dei ragazzi sotto i 18 anni è a rischio di povertà o di esclusione sociale. L'Italia non si discosta molto, lo vedono bene gli operatori in prima linea, come quelli che lavorano alla Casa della Carità di Milano, diretta da Don Colmegna. Anche tutto il dibattito che si fa sul reddito di cittadinanza, anche in termini europei, affronta questo tipo di tema, che la povertà è una questione di cittadinanza, non è una questione di assistenzialismo, di misericordia per cui bisogna aiutare, altrimenti la povertà mangia e vince la cultura dell'assistenzialismo e della cronicizzazione della povertà con la rassegnazione, perché per esempio tra i giovani il dato più drammatico è che aumentano quelli che non cercano neanche più lavoro, cioè portano dentro di sé la struttura della rassegnazione dell'impotente, un investimento di situazioni che sono al limite della legalità, dell'illegalità e qualche volta di un investimento di criminalità, insomma. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il tasso di inflazione annuale in Europa scende di nuovo a dicembre a 0,8% dallo 0,9% di novembre. Questi dati della stima flash di Eurostat. Ottobre era allo 0,7%, a settembre 1,1%. Alimentari, alcol, tabacchi hanno avuto l'impatto più forte, 1,8% rispetto all'1,6% di novembre. Seguono i servizi, i beni industriali, l'energia. I dati integrali completi saranno pubblicati il 16 gennaio. L'Unione Europea dovrebbe tenere in considerazione i valori tradizionali della Georgia, paese di ispirazioni euroatlantiche, ma con una società per cui gli ideali dei matrimoni e delle famiglie omosessuali sono alieni. Il messaggio del Catolicos, patriarca di tutta la Georgia, Ilia II, arriva ieri sera, è stato distribuito durante la messa della notte di Natale del calendario ortodosso, che appunto in base al calendario giuliano si celebra oggi, e messaggio che è stato distribuito nella Cattedrale della Santa Trinità a Tbilisi. E infine il colosso russo Gazprom ha aumentato nel 2013 le sue esportazioni di gas in Europa del 23,8% rispetto all'anno precedente, mentre le forniture ai paesi della CSI, dunque la comunità degli stati indipendenti, sono calate di oltre il 13%. In totale lo scorso anno Gazprom ha esportato 217 miliardi di metri cubi di gas, con un incremento del 7,1%. Bene, con questo abbiamo detto tutto per quanto riguarda l'Europa. È tempo di parlare di calcio con Carlo Genta. Noi ci sentiamo domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.